Il sole scende dietro il campanile della cattedrale. I cani rosicano le ossa del vitello ammucchiate al centro della piazza. Ho stabilito dei turni di guardia alle barricate, 2 ore ciascuno, per consentire a tutti di dormire un po'. Le donne hanno approntato dei giacigli di fortuna con quello che avevano a disposizione e acceso i fuochi per la notte. Il freddo è intenso. Qualcuno ha preferito un tetto sulla testa. I più determinati sono rimasti, però, gente su cui si può contare. Ci scaldiamo davanti a un fuoco, stretti nelle coperte. Un improvviso trambusto alla barricata che chiude la piazza sud ci fa scattare in piedi. Le sentinelle scortano fino qui un ragazzo sui 20 anni, aria impaurita e fiato grosso. Dice di essere il servitore del consigliere Palken. Il senatore e suo figlio li hanno trascinati via. Erano armati, non ho potuto far niente. Wördermann, c'era anche il borgomastro Judenfeld, se li sono presi. Con calma, prendi fiato. Chi erano? Quanti? Il ragazzo è sudato, marcio. Faccio portare una coperta. Gli occhi saltano dall'uno all'altro dei nostri volti. Gli allungo una tazza di brodo fumante. Io servo in casa del consigliere Palken. Mezz'ora fa una dozzina di uomini armati sono entrati e Judenfeld li guidava. Hanno costretto il consigliere e suo figlio a seguirli. Cosa vogliono da Palken? Knipperdolling, corrucciato, è uno dei pochi che ci appoggia in consiglio. Wödermann, Judenfeld e tutti gli altri luterani lo odiano. Rothmann non sembra convinto. A cosa gli serve un ostaggio? A Huberwas sono inattaccabili. Il panico negli occhi di Rothmann. Le chiavi! Cosa? Le chiavi! Palken ha in custodia le chiavi delle porte a nord-ovest delle mura. Sì! Il servo solleva il naso dalla tazza. Volevano proprio delle chiavi. Grasbeck, la mappa. La srotolo alla luce del fuoco, con l'aiuto di Knipperdolling. La Frauentor e la Jutenfeldtor. E porta dietro Huberwasser, la strada per Han Marsh. Vogliono far entrare i vescovigli in città. Si mette male. Lo si può leggere nei volti di ciascuno, ingabbiati nella stretta piazza del mercato, tagliati fuori dall'altra sponda della Haa, dove i luterani stanno compiendo il crimine scellerato che ci annienterà. Tentare una sortita? Uscire da questo imbuto e scatenare a sorpresa l'assalto a Huberwasser? L'intera città sprofonda in un silenzio irreale. Tranne i contendenti, tutti sono rinchiusi nelle abitazioni, muti, intorno a tenui fuochi d'attesa del destino imminente e ignoto. Chi sta giungendo in città? I 3.000 prezzolati al seguito di von Waldeck? Un'avanguardia d'assaggio in attesa del giorno? Questa notte darà le risposte. Knipperdolling è furente. Sti gran coglioni, bifolchi arricchiti. Mi ricordo tutti quei bei discorsi contro il vescovo, i papisti e tutto quel riempirsi la bocca di libertà municipali, di fede nuova. Me la devono dire in faccia che si vendono al vescovo per una manciata di scudi. Il vescovo l'abbiamo scacciato insieme. Voglio parlarci, Gert. Fino a ieri tutto avrei pensato meno che lasciassero la città in pasto ai mercenari. Che me lo dica in faccia quel porco di Judenfeld. Cosa gli ha promesso von Waldeck? Dammi una scorta, Gert. Ci voglio parlare con quei cialtroni. Redeker scuote il capo. Tu sei pazzo. Le loro parole non contano un cazzo, hanno gli occhi fissi sulle borse. Sei tu il coglione che ci perdeva il tempo a parlare. Rothmann interviene. Forse si può tentare, ma senza correre rischi inutili. Forse non sono così compatti come sembrano. Forse hanno solo una paura maledetta. Partono 2 squadre. Una diretta alla Frauentor da sud, poi risalendo le mura, in tutto una decina di fantasmi. Redeker dalla parte opposta, verso la Judenfeld del Tor. Niente iniziative o assalti disperati, non ancora. Sorvegliare gli ingressi caduti nelle loro mani, controllare i movimenti in entrata e uscita. Provare a leggere il futuro nelle loro mosse. Le 2 squadre hanno il compito di perlustrare e lasciare vedette sul percorso e sulla via di Huberwasser. Occhi a scrutare ogni battito d'ali e staffette pronte a dare notizie a ogni ora. Con me, a scortare il capo delle gilde tessili, una ventina, quasi tutti ragazzi, 16, 17 anni, ma hanno fegato da vendere e occhi buoni. Hai paura? Chiedo quei baffi che ancora stentano a crescere. La voce roca del sonno ricacciato lontano. No, capitano! Che mestiere fai? Garzone di bottega, capitano. Oh, lascia stare il capitano. Come ti chiami? Carl. Carl, sai correre veloce? Quanto possono queste gambe? Bene. Se ci attaccano e vengo ferito, se vedi che si mette male, tu non perderai tempo a raccogliermi Correrai qui come il vento e darai l'allarme, hai capito? Sì. Nimperdolling prende con sé tre dei suoi e si avvia in testa con un drappo bianco in segno di tregua. Lo seguiamo, a qualche decina di passi. Il capo dei tessili è già in prossimità del monastero. Inizia a chiedere che qualcuno venga fuori a parlamentare. Noi restiamo poco più avanti di San Nicola, colpi in canna e fionde pronte al lancio. Da Huberwasser silenzio. Nimperdolling avanza ancora. Allora, Judenfeld, vieni fuori, borgomastro del cazzo. È così che difendi la città? Rapisci un consigliere e apri le porte a von Waldeck? La città vuole sapere perché avete deciso di farci ammazzare tutti quanti. Vieni fuori e parliamone da uomini. Qualcuno da una finestra gli dà la voce. Che cazzo sei venuto a fare, porco anabattista? Ci hai portato qualcuna delle tue puttane? Nipperdolling traballa, perde la calma. Figlio di cane, è tua madre la puttana. Avanza ancora. Troppo. Ti stai mettendo con i papisti, Judenfeld? Con il vescovo? Che cazzo ti è saltato in testa? Torna indietro, idiota. Dai, non così sotto. Il portale si spalanca. Escono in una decina, armati. Gli sono addosso. Attacchiamo! Ci lanciamo. Nimperdolling si dimena, sbraitando. Lo tengono in quattro. Arretrano mentre li bersagliamo con le fionde e le balestre. Si sentono le prime archibugiate. Un paio di noi sono colpiti. Sparano dalla torre. Il portone si richiude, noi siamo allo scoperto, sbandiamo, ci allarghiamo nel piazzale, rispondiamo al fuoco, rimbombano le urla di Nimperdolling e colpi d'archibugio. Ci hanno fottuto. Non c'è niente da fare, bisogna ritirarsi, raccogliere i felici. Do l'ordine. Indietro, indietro! Imprecazioni e lamenti ci accompagnano verso la piazza del mercato. Ci hanno fottuti e siamo nella merda. Attraversiamo le nostre barricate e ci fermiamo sulla scalinata di San Lamberto. Trambusto, voci, bestemmie, tutti si accalcano intorno a noi. Stendiamo i feriti, li affidiamo alle donne. La notizia della cattura di Nimperdolling si diffonde immediatamente insieme al boato di rabbia. Rothman è costernato. Gresbeck invece mantiene la calma. Ordina di tenere le posizioni. Dobbiamo arginare il panico. Sono furioso. Sento il sangue che ribolle. Le tempie pulsano. Siamo nella merda e non so che fare. Gresbeck mi scuote. È tornato Redeker. Arriva trafelato anche lui, faccia scura. Sono entrati. Non più di una ventina, il galoppo sfrenato. Cavalieri di von Waldeck. Sei sicuro? Ho visto le corazze, i blasoni del cazzo. Scommetto che c'è anche quel porco di von Buren. Rothman, la testa tra le mani. È finita. Silenzio intorno. Kippenbrock cerca di rincuorarci. Siamo calmi. Fin tanto che il grosso delle truppe del vescovo non entra in città, non possono toccarci. Siamo di più e sanno che non abbiamo niente da perdere. Ma serve qualcosa. Il tessitore ha ragione. Bisogna pensare. Pensare. Il tempo passa. Rinforziamo il presidio sulle barricate. Il nostro unico cannone viene messo al centro della piazza per respingere l'assalto nel caso una delle difese vada giù. Gli uomini non devono avere il tempo di scoraggiarsi. Ancora ronde e raccolta di armi. Recuperiamo altri archibugi. Dicono che i cattolici stiano affliggendo ghirlande sui portoni di casa per essere risparmiati dalle horde di von Waldeck. Altre squadre per strapparle via. La città è immobile. La piazza, illuminata dai fuochi, potrebbe essere un'isola in mezzo a un oceano scuro. Là fuori, come animali terrorizzati, tutte attendono rintanati nelle loro case. Nelle loro case. Nelle loro case. Mi apparto, con Gresbeck e Redeker. Confabuliamo, stretti. Si può fare. Tentare, almeno. Più nella merda di così. L'ultima consegna per Gresbeck. Siamo d'accordo allora. Avverti Rothman, che si muova. Dagli gli uomini più in gamba. Il tempo è appena sufficiente. Gert! L'ex mercenario mi porge le sue pistole, tenendole per la canna. Prendi queste. Sono precise. Un regalo della campagna in Svizzera. Me le infilo incrociate in cintura. Ci vediamo tra un'ora. Redeker mi fa strada, nel buio, quasi totale. Passo deciso. Giriamo due o tre strade strette. Pochi passi ancora e mi indica il portone. Sottovoce. Jürgen Blatt. Carico le pistole. Tre pugni sulla porta. Con forza. Capitano Jürgen Blatt, della Guardia Municipale. Le truppe del Vescovo stanno entrando in città. Il borgomastro vuole che scortiamo la signora e le figlie al monastero. Subito, aprite. Passa dietro il portone. Chi siete? Capitano Blatt, ho detto. Aprite. Trattengo il respiro. Rumore di chiavistello. Appoggio la canna sulla fessura della porta. Si apre appena uno spiraglio. Il porto via mezza testa. Dentro. Quello in cima alle scale non fa in tempo a puntare all'archibugio. Lo prendo alla gamba. Cade. Urla. Sguaina un pugnale. Con due balzi Redeker è già in cima alla rampa e lo finisce con il coltello. Poi sputa. Daga in mano. In fondo al corridoio grida di donne. Una vecchia mi si para davanti. Portami dalla signora. Una grande camera da letto. Baldacchino e ammennicoli vari. La signora Judenfeld, in un angolo, stringe a sé le due bambine. Una domestica terrorizzata inginocchiata a pregare. Tra noi e loro, il cazzone con la spada in mano, 20 anni al massimo. Trema, non parla, non sa che fare. Redeker, metti giù, che potresti farti male. La fisso. Signora, gli eventi convulsi di questa notte hanno reso necessaria la mia visita. Non intendo farvi del male, ma sono costretto a chiedervi di seguirci. Le vostre figlie rimarranno qui con tutti gli altri. Redeker sogghigna. Do un'occhiata alla casa, che non ci siano altri servi zelanti. La moglie del borgomastro Judenfeld è una bella donna, sui 30 anni, dignitosa, trattiene le lacrime e alza lo sguardo su di me. Vigliacco. Un vigliacco che lotta per la libertà di Münster, signora. La città sta per essere invasa da un'orda di assassini, al soldo del vescovo. Non perdiamo altro tempo. Faccio un fischio a Redeker, che ci raggiunge per le scale con un cofanetto sotto braccio. L'espressione della mia faccia non lo scoraggia. Gli ammazziamo i servi, gli prendiamo la moglie. E i fiorini no? Sull'uscio, la vecchia getta una pelliccia sulle spalle della padrona, mentre mormora un padre nostro. Scortiamo la signora Judenfeld alla piazza del mercato. Quando la prigioniera viene riconosciuta, ci accoglie un'ovazione che rinfranca lo spirito. Le armi si innalzano al cielo. I battisti sono ancora vivi. Dall'altra parte ci viene incontro Rotman, portando sotto braccio una dama distinta, avvolta in uno zibellino con una lunga treccia nera che le scivola sulle spalle. Vi presento la signora Wörthermann, moglie del consigliere Wörthermann. Madama è una consorella, io stesso l'ho battezzata. Redeker si accosta al mio orecchio. Quando ha appreso dalle sue spie di quel battesimo, il marito l'ha confermata nella fede a suon di bastonate. La poveretta credevano che morisse. Per giorni non ha potuto, non dico camminare, ma nemmeno strisciare per terra. Madama Wörthermann, bellezza austera, si stringe nella pelliccia. Spero, signori, che ci lascerete scaldare davanti a un fuoco, dopo averci tratte a forza fuori dalle nostre stanze in piena notte. Certamente, ma prima sono costretto a privarvi di un oggetto personale. Sfilo gli anelli dalle dita esili, due pezzi d'oro intarsiato. Carl! Il ragazzo arriva di corsa, muso sporco di sonno e fumo. Prendi il drappo bianco e vola fino a Huberwasser. Il messaggio è per il borgomastro Judenfeld. Di che tra mezz'ora ci presenteremo al monastero. Dobbiamo parlare. Stringo gli anelli nel pugno di Carl. Consegnagli questi. Tutto chiaro? Sì, capitano. Vai, svelto. Carl si toglie gli scarponi troppo larghi, rimanendo a piedi nudi sul nevischio. Saetta come una lepre attraverso l'accampamento, mentre faccio cenno alle sentinelle di lasciarlo uscire. Chi va di noi? Chiede Rotman. Kippenbrock il rosso si fa avanti, slacciando la cintura che regge la spada e consegnandola a Gresbeck. Vado io. Guarda me e il predicatore. Se vedono uno di voi due, potrebbe venirgli una gran voglia di sparare. Io rappresento la gilda dei tessili. Non apriranno il fuoco su di me. Gresbeck interviene. Ha ragione, Gert. Tu servi qui. Mi sfilo le pistole dalla cinta. Queste sono tue. È buio. Non mi riconosceranno. Userò un nome diverso. Li farai ammazzare. Il tono è già rassegnato. Gli sorrido. Non abbiamo più niente da perdere. E questa è la nostra forza. La mappa, presto. A Redeker, conosci questi passaggi dietro il cimitero? Certo, ci si arriva passando sulle passerelle del Rhine Cluster. Probabilmente avranno piazzato delle sentinelle qui e qui. Fai dei gruppi di 3 o 4 e falli passare dall'altra sponda. Quanti uomini in tutto? Almeno 30. E le sentinelle? Tiratele giù, ma senza chiasso. Cosa intendi fare? Qui rimarremo sguarniti. Gresbeck segue il mio rito sulla pergamena. Il monastero è imprendibile, ma il cimitero no. Gresbeck si tortura il sopracciglio. È una piazza d'armi, Gert. C'è anche un cannone. Ma può essere raggiunto facilmente ed è fuori tiro dal monastero. Di nuovo a Redeker. Avvicinatevi il più possibile. Sono barricati dentro. Non controlleranno il muro esterno, ma sbrigatevi. Tra un'ora, al massimo, è l'alba. Un'occhiata d'intesa con Kippenbrock. Andiamo. Mentre ci incamminiamo, verso il limite della piazza, la voce di Rotman ci raggiunge alle spalle. Fratelli! Stagliato, contro la luce della torcia alto, pallidissimo, il fiato che si perde nel gelo notturno. Potrebbe essere Aronne o lo stesso Mosè. Che il padre accompagni i vostri passi e vegli su tutti voi. Poco oltre la nostra barricata, incrociamo la corsa di Carl. I piedi congelati, il fiato grosso, quasi gli impedisce di parlare. Capitano, dicono di andare, che non apriranno il fuoco. Hai consegnato gli anelli? Al borgomastro in persona, capitano. Una pacca sulla spalla. Bene, adesso corri a scaldarti davanti al fuoco. Per stanotte hai fatto la tua parte. Proseguiamo. Huberwasser si staglia come una fortezza nera sull'Aa. La chiesa di Nostra Signora affianca il monastero. Dalla torre campanaria, le nostre ronde, per un'ora, hanno sentito provenire le urla sguaiate di Knipper Dolling, finché non ha perso la voce. Adesso soltanto il silenzio e lo scorrere lieve del fiume. Io e Kippenbrock avanziamo affiancati, con un lenzuolo bianco teso in mezzo. Il cigolio del portale che si socchiude e una voce allarmata. «Alto là! Chi siete?» «Kippenbrock, rappresentante della corporazione dei tessitori. Sei venuto a far compagnia al tuo socio? Chi è quell'altro con te?» «Il fabbro Swedarto, portavoce dei Battisti di Münster. Vogliamo parlare al borgomastro Judenfeld e al consigliere Wördermann. Le loro mogli li mandano a salutare.» Aspettiamo. Il tempo non passa. Poi un'altra voce. «Sono Judenfeld. Parlate!» «Sappiamo che hai fatto entrare in città l'avanguardia del vescovo. Dobbiamo parlare. Venite fuori, tu e Wördermann, al cimitero.» Nessuna inutile indulgenza. «E ricordati che se non torniamo al campo entro mezz'ora, gli operai di Sant'Egidio prenderanno tua moglie, davanti e di dietro. Così forse la signora ti partorirà il maschio che desideri da tanto.» Silenzio e gelo. Poi, «D'accordo, al cimitero. Gli uomini non apriranno il fuoco su di voi.» Aggiriamo il convento. Il cimitero dove marciscono almeno 3 generazioni di monache è per 3 lati circondato dall'acqua e chiuso in fondo da un muro basso di pietre. Tra le croci di legno è allestito un accampamento. Una 20ina di cavalli, legati sul muro rivolto al monastero, ci dice che le ronde hanno contato giusto. C'è un cannoncino che spunta dietro a un cumulo di sacchi, presidiato da 3 luterani. Altri 2 con gli archibugi stanno all'ingresso e ci seguono cauti. I cavalieri di Von Waldeck lucidano le spade, bivaccati intorno ai fuochi. Occhiate truci e la superiorità scritta in faccia. Gli affari di questi borghigiani non ci riguardano. Il borgomastro e l'uomo più ricco di Münster ci vengono incontro, torce in mano, 12 di armati alle spalle. Li metto in guardia. «Tieni a distanza, Wödermann, i tuoi sgherri. O la signora potrebbe decidere che l'uccello di Rothman è davvero meglio del tuo.» Il mercante, secco e grifagno, trasalisce e mi scruta disgustato. «Anabattista! Il tuo predicatore è soltanto un buffone ribelle.» Judenfeld gli fa cenno di tacere. «Cosa volete?» Non ha copricapo, i capelli scompigliati dalla nottata insonne, la mano che suda nervosa sullo stiletto in cintura. Lascio che sia Kippenbrock a parlare. «Stai per fare la cazzata della tua vita, Judenfeld. Una cazzata di cui ti pentirai per il resto dei tuoi giorni. Fermati finché sei in tempo. All'alba, le truppe di Von Waldeck prenderanno il possesso della città e riavrà il dominio.» Il borgomastro lo interruppe, stizzito. «Il vescovo mi ha assicurato che non toccherà i privilegi municipali. Ho un documento scritto di suo pugno.» «Stronzate!» sputa fuori Kippenbrock. «Quando riavrà il potere, potrà pulirsi il culo con i tuoi privilegi municipali. Chi potrà dirgli niente? Quando sarà di nuovo il padrone di Münster? Ragiona, Judenfeld. E anche tu, Wördermann, fai un po' i tuoi conti. Quanto gioverà nei tuoi affari le gabelle del vescovo? La produzione dei conventi tornerà a schiacciare la tua e i francescani si arricchiranno mentre tu paghi le tasse a Von Waldeck. Pensaci! Il vescovo è un figlio di puttana navigato. Promettere non gli è costato niente. I papisti sono abituati a questi sotterfugi, lo sapete meglio di me.» Kippenbrock ha alzato troppo la voce. Il cigolio di corazze e speroni ci avverte dell'avvicinarsi dei cavalieri. Le torce illuminano la barba curata e i guanti di cuoio di Dietrich Worm Marfeld di Wölbeck, fratello della badessa di Huberwasser e braccio destro del vescovo. Al suo fianco Melchior von Buren, probabilmente qui perché spera di saldare di persona il conto con Redeker. Judenfeld previene ogni domanda. Signori, sono Battisti, sono qui per parlamentare. Abbiamo promesso loro l'incolumità. Dietrich baffia all'insù, sogghigna stupito. Che succede, Judfeld? Ancora a trattare con questi pezzenti? Tra un'ora di loro non rimarrà che un mucchio di ossa. Sono morti che camminano, lasciali perdere. Il signore von Merfeld non sbaglia, intervengo. Di tutti i contendenti di questa notte, gli unici che non hanno nulla da perdere siamo noi. L'ingresso del vescovo in città per noi significherebbe solo morte certa. Quindi state sicuri che combatteremo e venderemo caro la pelle. La città dovrete prenderla palmo a palmo. Von Buren sbuffa. Siete dei conigli. Non resisterete il tempo di uno sbadiglio di sua signoria. Borseggiatori e ladri di strada, questo siete. Kippenbrock sorride e scuote la testa in modo da raccogliere l'attenzione nervosa dei due mercanti. Temete tanto di perdere il vostro potere che vi siete presi i vassalli di von Waldeck in casa per paura dei nostri quattro archibugi. Sai che ti dico, Judfeld? Von Waldeck questo lo sapeva fin dall'inizio. Sapeva di poter usare la divisione tra voi e noi, di poter tagliare la città in due. La fronte alta del borgomastro è un riprodursi di rughe. Gli occhi guizzano dal volto di Wöderman, nero più che mai, ai miei e a quelli di Kippenbrock, che non gli dà tregua. È tutto un maledetto imbroglio. Non te ne sei ancora accorto? Fin dall'inizio il vescovo ha giocato su due tavoli. Ha rassicurato voi per avere un appoggio dentro le mura, qualcuno che gli aprisse le porte al momento giusto, e una volta rientrato si ricorderà improvvisamente che siete luterani, ribelli come noi alle autorità del Papa. Una pausa. Il tempo che realizzino, poi... Puoi scordartene le tue libertà municipali. Dopo di noi sarà il vostro turno sul patibolo. Pensaci, Judfeld, pensaci bene. I due borghigiani sono immobili, lo sguardo su Kippenbrock, e poi intorno, a cercare un invisibile consigliere. Von Merfeld incredulo. Judfeld, non vorrai ascoltare questi due pezzenti? Non vedi che stanno cercando di salvarsi la vita? Sono alla disperazione ormai. Quando sua signoria sarà qui, sistemeremo tutto. C'è un accordo tra di noi, ricordatelo. Ancora silenzio. Ascolto il battito del cuore, che dà ritmo allo scorrere del tempo. Wöderman recita a mente il rosario della contabilità. Judfeld pensa alla moglie. Judfeld pensa all'esercito del vescovo. Judfeld pensa ai suoi 40 uomini asserragliati nel convento. Pensa ai baffi ridicoli di von Merfeld. Pensa alla troia di sua sorella la badessa che, sì, si è sempre saputo che era la spia del vescovo in città. Pensa alle ghirlande sulle case dei cattolici. Allargo le braccia. Siamo venuti disarmati. Smettiamo di combatterci e difendiamo insieme la nostra città. Che cazzo c'entrano i nobili? Münster siamo noi, non i papisti, non i vescovili. Von Merfeld sbotta. Per Dio, non potete lasciarvi convincere così da due bifolchi con la lingua sciolta. Judfeld sospira e stritola un serpente immaginario nel pugno. Non sono loro a convincermi, signore di Wölbeck. Voi ci portate promesse. La parola di sua signoria, Franz von Waldeck. Ma questi bifolchi, come li chiamate, offrono la pace, senza bisogno di alcuna armata mercenaria in città. È una proposta che devo prendere in considerazione. Von Merfeld impreca. Ma non vorrete credere a queste facce di merda? Sono ancora il borgomastro di questa città. Devo pensare all'interesse dei suoi abitanti. Sappiamo che i cattolici hanno ricevuto l'ordine di appendere ghirlande fuori dalle porte di casa. Perché? Signore, sapete spiegarvelo? È forse perché i mercenari del vescovo possano riconoscere quali case risparmiare dal saccheggio? Non erano questi i nostri accordi. Von Merfeld impietrisce. Un cazzuto luterano lo sta accusando apertamente. Ma è von Buren il primo a scattare. Se è così, conosco un modo per trattare Volta Gabbana. Sguaina la spada e la punta alla gola del borgomastro. I luterani reagiscono. Non basta un cenno di von Merfeld e i cavalieri sono in piedi. 20 cavalieri armati fino ai denti ed addestrati a combattere contro una dozzina di borghigiani impauriti. In uno scontro diretto non ci sarebbe storia. Von Merfeld mi offre un ghigno trionfante. È un urlo orribile a spegnerlo, come il gracchiare di un rapace. Dal muro in fondo al cimitero, un grido che gela il sangue e rizza i peli delle braccia, si arrampica su per la schiena come un ragno. Fermo, porco! Ombre lunghe di spettri avanzano tra le tombe. L'esercito dei morti che si risvegliano. Qualcuno si butta in ginocchio a pregare. Dico a te, porco! Macabri attraverso il campo emergono dalla notte, alla luce delle torce, l'armata delle ombre, 30 fantasmi con balestre e archibugi spianati, il suo capitano in testa. Si avvicina, due pistole più grandi di lui, le ali dell'angelo della morte. Von Buren, figlio di una gran troia. Si ferma, sputa per terra e sibila. Sono venuto a mangiarti il cuore. Il cavaliere sbianca, la spada vacilla. L'angelo delle tenebre, Redeker, si spinge fino a pochi passi da noi. Tutto bene, Gert? Giusto in tempo. La situazione si è, a dir poco, ribaltata. Adesso tocca a voi decidere, signori. O risolviamo subito i nostri conti sul campo, o risalite a cavallo e ve ne andate per dove siete venuti. I baffi restano sull'attenti. Von Buren ha già dato il suo voto, abbassando la spada. Judfeld finalmente respira. Siamo il doppio di loro e più determinati. Non abbiamo niente da perdere, e von Merfeld questo lo sa. Uno schiocco della lingua e un'imprecazione sottovoce. Un'ultima occhiata sprezzante al borgomastro. Gira sui tacchi e raggiunge i suoi uomini con un gran tintinnio di speroni. Redeker appoggia la canna al petto di von Buren. Quello chiude gli occhi e aspetta il colpo impietrito. Una mano esperta gli slaccia il portamonete dalla cintura. Fila via, bastardo! Torna a leccare il culo del tuo vescovo! Il sole spunta opaco dietro San Lamberto, mentre ritorniamo alla piazza del mercato. I cavalieri stanno lasciando la città, scortati dagli uomini di Redeker e dai luterani insieme. Qualcuno giura di aver visto von Buren piangere di rabbia mentre varcava la porta della città. Le signore Judfeld e Wodermann hanno ritrovato i mariti e Knipper Dolling cammina al nostro fianco, insieme al consigliere Polken e a suo figlio. Un filo di voce roca, un occhio pesto, ma l'umore è alto, quasi passeggiasse spensierato alla ricerca di un'osteria. Nell'accampamento siamo accolti da un grido di esultanza. Gli archibugi sparano verso il cielo. Una foresta di mani ci solleva sopra le teste. Le donne ci baciano. Vedo gente spogliarsi. Liandileida portato in trionfo da un gruppo di ragazze come se la sola forza delle sue parole avesse sconfitto la Iella. La gente abbatte le barricate e si riversa nelle strade. Quelle strade che, per una notte intera, sono state percorse dalla minaccia più grande. Le finestre si aprono. Donne, vecchi e bambini scendono in strada, nonostante il gelo intenso. Nonostante l'alba cominci appena a dipanare le tenebre. Knipper Dolling mesce birra per tutti. Rotman mi viene incontro, soddisfatto, il volto stanco ma ridente. Ce l'abbiamo fatta! Te l'avevo detto che il Signore ci avrebbe protetti. Sì, il Signore e gli archibugi, sorrido. E adesso? Come? E adesso cosa facciamo? La risposta nella voce di Gresbeck, annerito dal fumo delle torce, sgualcito e sporco. La cicatrice bianca sul sopracciglio sembra essersi ingigantita in mezzo a quel volto scuro. E adesso tiriamo il fiato, capitano Gerd dal Pozzo. Mi sorride. Gli stringo la mano mentre lo ringrazio. Knipper Dolling sta ascoltando il messaggio di una delle ronde. Aria preoccupata, traballa verso di noi. Gerd, questa non ci voleva. Cosa cazzo è successo ancora? Von Waldeck ha scatenato contro di noi i contadini delle sue terre. Stanno venendo qui, 3.000 dicono. Vogliono sistemare le cose in città, una volta per tutte.